difficile cambiare, com'è difficile aspettare, fare da madre, amare quando nulla c'è, com'è difficile accettare, oh, fare silenzio e consolare tutto il mio cuore che poi teme di cadere. Forse il mio sogno può sperare che qualcosa in fondo c'è, ma poi apro gli occhi e Dio è lì, rivedo te, oh, oh, oh. Io pregherò, thank you.